Radio 24 presenta Il riposo del guerriero con Stefano Gallarini. Le 10 e 9 minuti, buona domenica da Stefano Gallarini, comincia il riposo del guerriero, il rotocalco di Radio 24 che vi porterà oggi nel futuro, il futuro prossimo, visto che insomma oggi e domani sono due giornate importanti per quanto riguarda noi italiani e ovviamente quando si va a votare cosa succede? Che la mente sempre... pensa sempre al futuro, no? Pensa sempre alle cose che arriveranno. E allora noi oggi vogliamo cercare di capire che cosa ci aspetta, ma certo non da un punto di vista politico, ma che cosa ci aspetta da un punto di vista della nostra quotidianità, delle case dove abiteremo, delle città che vivremo, della tecnologia che indosseremo addirittura, perché cambieranno tantissime cose nel futuro. Avremo a che fare con una tecnologia che forse non è neanche pensabile in questo momento, ma che potremo trovare anche a disposizione negli scaffali nel prossimo Natale. E di questo parliamo oggi e anche di come cambieremo noi, soprattutto noi, con le relazioni sociali, con quelli che sono chiamati, forse in modo un po' vecchio, i social network, che si amplieranno talmente tanto che ci daranno la possibilità di gestire e fare qualunque cosa. Saremo gestiti dai computer come al 9000 oppure no, saremo noi a gestire loro, chi lo sa. Insomma, cercheremo di capire questo, insomma, di chiacchierare con gli ospiti, tra quelli in studio e quelli che invece avremo al telefono. Ma come sempre vi ricordo anche la possibilità di portare a casa il catalogo della mostra di Modigliani a Milano con Modigliani in 24 minuti. Dovete cercare di associare una delle canzoni che vi farò ascoltare a uno dei quadri di Modigliani. Modigliani in 24 minuti alle 11:30 circa. Vi faccio ascoltare la canzone di oggi. Corriamo per le strade e mettiamoci a ballare. Canzone famosissima di Riccardo Cocciante, legata a uno dei quadri di Modigliani. Dovete dire il titolo che in qualche modo ha a che fare con questa canzone. Il numero per prenotarsi 800 24 00 24, si gioca alle 11:30. Siamo pronti a parlare di futuro e allora ovviamente partiamo con Chiara. Porta una bella curiosità, capire quale sarà il futuro. Chiara dice quale sarà, insomma l'abbiamo ascoltata a Sanremo questa canzone. Lorenzo Montali, benvenuto, è ricercatore in psicologia sociale all'Università Bicocca di Milano, e per capire tutti questi cambiamenti, quelli anche legati alla tecnologia alla fine, perché insomma credo che la tecnologia sia intorno a noi costantemente. Certo, intorno a noi costantemente, ed è soprattutto una dimensione che, come dire, cambia, come dicevi giustamente tu prima, cambia prima ancora che noi abbiamo pensato il cambiamento come possibile. Allora, quello che è straordinario è che ci troviamo per le mani delle cose che ci consentono di fare delle operazioni impensate. E non, non ci fa capire questo, che noi stiamo cambiando nel frattempo, giusto? Allora, ci dà la percezione che siamo costantemente in uno stato di cambiamento, ma per noi avere la percezione di essere costantemente in uno stato di cambiamento vuol dire avere, in qualche modo, senza drammatizzarlo, però sempre un vissuto di incertezza. Eccolo. No? Allora, il punto diventa questo. Come stai in mezzo a questa dimensione che è un cambiamento che immagini possa essere anche positivo, no? E quindi da questo punto di vista ti attrae e allo stesso tempo ti costruisce in una dimensione di incertezza e quindi non sai bene come maneggiare. Allora, il tema del maneggiare, il tema del controllare quello che abbiamo di fronte è per noi una dimensione fondamentale, cioè da sempre noi abbiamo un bisogno di controllo rispetto all'ambiente intorno a noi, e controllo vuol dire, dicono gli psicologi, controllo cognitivo, cioè devo capire di che cosa si tratta, ma poi anche controllo di padroneggiamento, no? Devo capire se dove mi può portare, se che riesco cosa a gestire posso... esattamente, che... no? Allora, Questo è per noi molto sfidante, no? C'è uno psicologo sociale che dice che la scienza è per noi cibo per la mente. È cibo per la mente perché continuamente ci nutre di qualche cosa, ma noi abbiamo bisogno di un tempo di assimilazione. Eppure questo tempo sembra non esserci mai, cioè è già pronto qualche cosa di nuovo. Infatti, no, allora... Io ho un amico che ogni volta che gli spiego delle cose legate alla tecnologia o alle possibilità del telefonino, no? Certo. Per gli smartphone, mi dice: ma non ci si ferma mai, cioè esatto. Perché c'è sempre qualcosa di nuovo. Fermarmi un attimo e cercare di assimilare quello che intanto ho imparato, perché è veramente difficile. Poi c'è il salto generazionale, ovviamente, anche. Certo, poi ma appunto perché c'è bisogno di in qualche modo poi stabilizzare. Eppure questa dimensione della stabilità sembra essere una dimensione che viene sempre rimandata a domani, no? Beh, intanto impariamo una cosa nuova, poi domani capiremo bene come farlo, come gestirlo, quali sono i problemi, e però poi c'è una nuova cosa, no? E quindi è sfidante in termini positivi e ovviamente con delle dimensioni legittime, anche se vuoi, di dubbio, di paure. Insomma, parleremo di questo ovviamente nella puntata di oggi, gli aggiornamenti sul traffico, questo è il presente, non il traffico come sarà, ma com'è in questo momento, e poi andiamo avanti. Il riposo del guerriero. Si parla di futuro possibile oggi nel riposo del guerriero insieme a Lorenzo Montali, ricercatore in psicologia sociale all'Università Bicocca di Milano. Lorenzo, quindi dicevi, vero, cibo per la mente, ma un po' ne siamo spaventati perché abbiamo paura di essere gestiti poi dalla tecnologia. Non siamo più noi che gestiamo, ma è quasi lei che ci gestisce. Poi lo vedremo anche oggi con i vari nostri ospiti. Certo, anche però perché in qualche modo la tecnologia ci costringe a ripensare alcune dimensioni fondamentali. Pensiamo alla questione della fecondazione assistita. No? La possibilità della fecondazione assistita di fatto che cosa comporta? Comporta che una cosa che si è sempre associata, e cioè la sessualità e la genitorialità, adesso diventano, come dire, due cose che possono andare indipendentemente, no? Allora questo ha molto a che fare con noi, nel senso che ci costringe a ripensare ad alcune categorie fondamentali, no? Su che cosa voglia dire essere genitori, su che cosa voglia dire avere un figlio, per esempio, che tradizionalmente sono sempre state indiscusse e che invece improvvisamente diventano qualcosa sì, su cui devi riflettere. Sì, perché cambiano i presupposti. Esattamente, cambiano i presupposti. Allora, l'idea che cambino i presupposti è un'idea radicale, no? Nel senso che allora dici, beh, cambia allora... tutto. Cambia tutto. Cioè il tuo atteggiamento mentale deve spostarsi. Esatto, ma io sono attrezzato, o meglio, cosa devo fare per attrezzarmi? Perché è vero, quella dimensione della paura, come dire, c'è, ma in realtà noi siamo dotati di competenze, diciamo così, e di capacità, per cui poi ci riattrezziamo rispetto alla novità. Però allo stesso tempo, come dire, questo comporta un lavoro, in qualche modo una fatica. Allora, se questa dimensione viene sfidata, diciamo così, in tanti ambiti, il lavoro, le relazioni sociali, il diventare genitori, è chiaro che, come dire, viviamo in una situazione nuova. Quello che ci caratterizza rispetto alle migliaia di anni precedenti è esattamente questo, e cioè il fatto di essere un'epoca che è continuamente attraversata da dimensioni di cambiamento. Per cui il cambiamento c'è sempre stato nel corso della storia, adesso è accelerato, no? Ha una dimensione accelerata, e quindi da questo punto di vista è qualcosa di nuovo. Che ci deve attrarre sicuramente, ma un po' ci fa paura. Paola Dezza, buona domenica. Grazie anche a voi, buongiorno. Paola Dezza, giornalista, ha scritto fra l'altro un articolo per Casa 24 Plus in cui hai descritto le città del futuro, faccio degli esempi, Stoccolma, Copenaghen e molte altre, perché ci sono già città che per noi sono proprio il futuro, lì invece è il presente. Cosa sta succedendo in questi posti, Paola? Abbiamo scelto 10 città che potrebbero essere proprio le capitali del futuro per la capacità di rinnovarsi, di riqualificare aree molto estese, e lì, come appunto dicevi tu, il futuro è il presente. Per noi sono format quasi utopistici, per noi italiani, perché viviamo in città in cui i cambiamenti sono sempre molto lenti. Invece in queste città che abbiamo descritto, dall'Asia agli Stati Uniti, passando per il Nord Europa, i cambiamenti sono molto veloci e soprattutto sono tutti in chiave ecosostenibile, che è, diciamo, il tema del momento. Ecco, ci fai qualche esempio, nel senso, cosa hai trovato di curioso, di particolare, qualcosa che vorresti vedere anche tu nella tua città? Ma ci sono interi quartieri, per esempio se prendiamo il Nord Europa, sia a Stoccolma che a Copenaghen, che vengono riqualificati, magari quartieri ex industriali, abbandonati, in chiave appunto ecosostenibile, quindi nell'arco di lungo periodo, perché solitamente sono progetti che vanno dai 10 fino addirittura ai 40 anni, si stravolge l'aspetto di un quartiere intero della città, costruendo in chiave appunto ecosostenibile, con attenzione al verde, con un impatto per l'ambiente che è quasi nullo,

io però non sto parlando dei ladri e degli assassini. A me interessava quella. A te quella, certo. Perché vivi in un quartiere difficile. No, assolutamente, perché comunque... No, non lo so, tanti di noi vivono in quartieri tranquillissimi ma sono terrorizzati. No, no, no, ma appunto perché esiste, non strada. Esiste solo la sicurezza personale, certo, ma esiste la sicurezza di altro genere. Esiste la sicurezza, per esempio, esiste la possibilità di confrontarsi con temi come il dissesto idrogeologico o la bomba d'acqua che ha appena colpito Catania in un modo diverso. Io credo che uno dei compiti principali delle Smart City sarà questo, ma c'è un filone di studio, quello cosiddetto delle città resilienti, no? Quindi resiliente vuol dire che resiste e sopporta le sollecitazioni anche negative, rimane in piedi lo stesso. E allora, per esempio, oggi ci sono dei sistemi estremamente avanzati che con dei radar permettono di fare delle previsioni meteorologiche, ti faccio un esempio, a breve scadenza, anche solo di mezz'ora o di 40 minuti o di un'ora prima, ma estremamente dettagliate. Cioè ti posso dire che sullo stadio dove si sta tenendo il concerto comincerà a piovere fra 20 minuti, quindi magari gli strumentisti mettono nella custodia il già violino. Già preparano. Esatto, e poi dopo mezz'ora però sanno che si può cominciare, ricominciare a suonare. Questo è un esempio banale, ma pensa a tutte le attività, per esempio, che sono condizionate dal tempo atmosferico, da chi organizza banchetti ai concerti, attenzione alla protezione civile. Essere in grado di stabilire con grande precisione che una bomba d'acqua, cioè un fenomeno, una precipitazione improvvisa e molto violenta, sta per colpire un bacino idrico piccolo, laddove questo causa le cosiddette flash flood, le alluvioni improvvise, saperlo mezz'ora o un'ora prima può essere importante, può salvare la pelle a diverse persone. Ecco, questo è uno degli esempi per quanto riguarda la meteorologia, ma poi c'è il dissesto idrogeologico e quant'altro. Su questo tema si sta lavorando molto poco. Ecco, perché la domanda poi è questa, la puntata di oggi è legata al futuro che vedremo proprio, cioè che davanti a noi, non quello che sarà chissà, certo, tra quanto, certo. No? Perché abbiamo già fatto una puntata di tanto futuro di cui si è parlato che poi non si è mai visto. E la domanda è, allora, tutto questo che hai raccontato, ok, scientificamente c'è, ci sono gli studi, ci sono anche già... Direi che negli Stati Uniti è una realtà praticamente consolidata. Quindi è un problema nostro. In Italia, dove abbiamo il problema del dissesto idrogeologico molto più grave, sì, e dove abbiamo per esempio il turismo che potrebbe beneficiare moltissimo di questo tipo di attività, e non facciamo quasi niente. Servono due radar per regione, per darti un'idea. Ecco, secondo per coprire tutto il paese. La tua sfera, cioè tu vedrai qualcosa nell'arco, non so, da qui a 5 anni, oppure proprio non vedi? Abbiamo qualche radar sperimentale in Italia, e nella mia sfera molto sfocata, non so dirti se sarà tra pochi o tanti anni. È sorprendente che non ci sia una domanda dal basso di questo tipo di servizi, che sono molto utili e davvero di uso quotidiano, per esempio in un paese come gli Stati Uniti. Forse perché non siamo sufficientemente sensibilizzati, anche se poi quando succedono poi i disastri, purtroppo, allora però siamo sempre se lì a piangerci, certo, che è inutile. Facciamo qualcosa prima. Grazie Maurizio Melis. Grazie a te. Tutti i giorni, lunedì, venerdì alle 21, Smart City. Il riposo del guerriero. Lorenzo Montari, non so se faccio bene a dividere fra italiani e altri in generale. Noi abbiamo una mentalità un po' conservatrice su alcune cose, no? Secondo te, la nostra attenzione al futuro più verde in generale è dettata proprio da un'attenzione, o è la crisi che ci ha portato a quello? Perché noi abbiamo bisogno di queste, diciamo, di queste sollecitazioni. Forze, sì, bravo, per... Allora, così te lo chiedo, non so se sai rispondere. Diciamo così, ma... che tutti i comportamenti, sì, sono l'esito di una serie di fattori che arrivano insieme, no? Cioè, noi facciamo un errore se proviamo a spiegare il singolo comportamento sulla base di una ragione, no? Non c'è mai una ragione perché facciamo una cosa. Ce ne sono sempre tante. Allora, noi possiamo dire, rispetto alle cose che sentivamo prima sulla Danimarca, che è vero che ci sono paesi nei quali c'è una cultura ecologica che da tempo si è sedimentata, no? Si è costruita, si alimenta nelle cose. Mentre da noi questo tema è un tema relativamente nuovo, no? Il che non vuol dire che poi noi non siamo capaci, nel momento in cui siamo messi nelle condizioni, di capire la rilevanza di certe cose. Cioè, per esempio, quando le raccolte di riciclo rifiuti sono ben organizzate, le persone sono disponibili a fare, anche da noi, un sacrificio in più perché poi l'operazione funzioni. Cioè, se capiscono il senso e sono messe nelle condizioni di farlo, come dire, gli italiani, così come gli altri, no, lo fanno. Esattamente, lo fanno. Il punto è che

sono usate per migliorare. È vero, ma lui dice questo crea un'ansia perché ti fa monitorare in continuazione. Sì, cioè, no? Nel momento in cui crei un mercato, no? E dici nel tuo quotidiano quante calorie hai consumato, e nel tuo quotidiano quanti grassi hai ingerito, ma come dire. E invece l'alternativa, ovviamente, il che non vuol dire appunto rinunciare alla tecnologia nel costruire l'alternativa, però l'alternativa in teoria è costruisci una cultura nella quale le persone siano consapevoli di ciò che stanno facendo senza avere, come dire, il bisogno di controllo, no? Ma siano, abbiano nelle loro mani la progettazione di che cosa voglio fare, cosa voglio mangiare, quanto voglio camminare, quanto sport voglio fare. Allora forse questo non vuol dire non usare la tecnologia anche per fare queste cose, però vuol dire forse spostare la prospettiva dalla dimensione del controllo su ciò che ho già fatto alla dimensione della prevenzione su ciò che posso fare, no? E quindi sulla progettazione. Poi dipende sempre dalle attività che devi fare, no? Alcune, il problema è che molti aspetti non li vedi. Se tu fai una corsa e bisogna sapere il tuo battito cardiaco, devi avere qualcosa che te lo misura, non per un fatto che sei un maniaco. No, è vero, si parlava della quotidianità, no? Quando certo. Hai a disposizione, insomma, questo è. Certo. Allora, comunque, dimmi. Sì, gli aspetti interessanti che poi anche qualunque oggetto, visto questa società sì. Che si chiama Cubaci, che sì. Fa un sensore che in pratica viene messo nelle piante, e quando la pianta ha bisogno di acqua ti avvisa. E questo tipo di trend è molto forte, no? Sul fatto di spalmare, avere sensori in giro che poi ormai sono sempre più diffusi, e in base a quello che l'utilizzo che vuoi fare ti aiutano. Faccio un altro esempio sì. Per chi è interessato di video, ad esempio. C'è un oggetto che si chiama Swivel, dove in pratica se vuoi riprenderti ti hai un sensore addosso, hai il tuo telefonino che metti su questo oggetto e ti fa da personal cameraman, che uno dice, ma è una cosa semplice e stupida, però in realtà è molto utile. Immaginatevi se voi volete fare, non so, dei video per YouTube o cose del genere. Quindi in qualunque settore noi vediamo una diffusione di sensori che ti aiutano poi a migliorare molte caratteristiche, molte attività. Su quello che dicevi dell'NFC, io ho visto ad esempio a Londra ormai si paga contactless, quindi è qualcosa sì, anche cioè, abbastanza sì, di spieghiamo agli ascoltatori, no? Cioè tu il telefonino, passi il telefonino proprio dotato di questa tecnologia su questi lettori e paghi con quello, quindi non porti più con te il portafogli. Questo nel futuro, ma prossimo, parliamo di qualcosa che c'è, ecco, anche da noi, che comunque ci sarà in modo imminente. Ma poi, scusami, aspetta, sì. Un altro aspetto che mi ha colpito di recente, ho letto sull'ultimo numero di Wired, quello inglese, sì. Sapete, no, che Richard Branson ha annunciato che a inizio del prossimo anno partono i viaggi spaziali. Richard Branson, uno degli uomini più ricchi del mondo, ha fatto questa compagnia di turismo spaziale, quindi tu puoi viaggiare nello spazio in sostanza. Sì. Costerà un sacco di soldi all'inizio, però insomma apre questo mondo del turismo spaziale. La cosa mi ha colpito è che ha detto, no, ma noi siamo già pronti ad andare su Marte, solo che costa troppo andare avanti e indietro, no? E quindi la cosa pazzesca è che il giornalista ha detto, sì, ma quindi cosa fate? Lasciate la gente lì? E lui ha detto, guarda, noi abbiamo per scherzo fatto una richiesta dicendo c'è qualcuno che vorrebbe venire su Marte e restare lì, e abbiamo avuto centinaia di adesioni di gente che dice, va bene, voglio spostarmi e andare su Marte direttamente. Quindi la cosa pazzesca è che quando uno ragiona sugli scenari di futuro, di tecnologia, ignora, come dire, trascura sempre il fatto che la media della popolazione comincia a essere sempre molto diversa, no? E quindi l'interesse delle persone sulle diverse attività o su il livello del limite che ci si pone è un livello sempre diverso da uno dagli altri. Quindi, per tornare anche al tema del controllo di prima, c'è una vasta fetta di popolazione che invece vede molto positivamente il fatto di monitorarsi, monitorare, essere, diciamo, imbeddata nella tecnologia. È interessante come in qualche modo apre degli scenari da assolutamente sicuramente da capire. Forse veramente 2001 l'Odissea nello spazio era davvero avanti in questo senso. Grazie Marco Montemagno e buona Inghilterra, ovviamente, portaci altre novità. Buona domenica ancora. Ciao. Grazie a voi, ciao Stefano, ciao Lorenzo, buona ciao. Giornata. Il riposo del guerriero. Andiamo avanti a parlare di futuro, stanno arrivando anche i vostri sms, poi li cominceremo a leggere. 349-238-6666 per scrivere. Così curiosamente Luca dice: se va avanti questa crisi invece di tecnologie da voi citate ritorneranno le candele e le stufe a legna. Ecco, vabbè, ma è vero, eh? Già qualcuno sta pensando non tanto alle candele quanto alle stufe a legna. Carlo Chericoni, buona domenica, direttore di T3, ciao. Buongiorno Stefano, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Allora, abbiamo parlato di una tecnologia che arriverà sicuramente, che vedremo, cioè oggetti intelligenti, sensori che si possono mettere dappertutto e sui telefonini arriveranno gli avvisi. Ma che cosa troveremo da qui a un mese, due, tre per il prossimo Natale? Quale tecnologia cambierà, se cambierà la nostra vita e magari anche il nostro atteggiamento psicologico, sociale? Il 2013 sarà sicuramente un grande anno per quanto riguarda gli appassionati di videogiochi, perché vedrà il lancio di due nuove importanti console. La Sony il 20 febbraio ha presentato la sua PlayStation 4, nuova grafica, nuove funzioni, e sarà presto presentata anche il successore dell'Xbox 360. Quindi diciamo che tra i grandi marchi ci saranno queste due novità. Però c'è anche un'altra novità che è molto interessante, sarà l'arrivo di Ouya, che è una console che è stata finanziata attraverso internet da oltre 60.000 persone ed è basata sul sistema operativo Android, costerà solamente 80 euro e permetterà di giocare a tutti quei giochi sviluppati per Android che costano delle cifre che vanno dagli 89 centesimi ai 5 euro, quindi una vera rivoluzione nel mondo dei videogiochi. Ecco, e per chi non volesse videogiocare invece? Per chi non volesse videogiocare c'è un interessante prodotto in arrivo da Google, che sono i Google Glass, sarebbero degli occhiali che si indossano e che oltre a proteggere i nostri occhi dal sole, visualizzano sulle lenti delle informazioni sul mondo circostante. Quindi sarebbe come avere costantemente un computer indossato sui nostri occhi. Ecco, quindi insomma, e questo tu dici sarà disponibile, lo potremo usare tranquillamente da qui a poco. Sì, una nuova tecnologia in fase di sviluppo che nel 2013 inizierà ad arrivare anche nel mercato di consumo. Ecco, per quanto riguarda le televisioni invece vedremo qualcosa di nuovo o ormai siamo stabili su quello che già abbiamo? No, ci sono due importanti novità. Allora, diciamo, una novità sicura è quella della cosiddetta definizione ultra o 4K, che sarebbe una risoluzione quattro volte superiore rispetto a quella dei televisori in alta definizione attuali, quindi sì, una definizione incredibile in cui l'occhio non riesce proprio più a determinare la dimensione del pixel, è come vedere costantemente delle immagini stampate. Quindi da quel punto di vista lì sarà una rivoluzione di immagine, anche di qualità di colore incredibile. L'altra novità è un po' uno spettro, no? Che si aggira nel mondo dei televisori, che è questa tanto favoleggiata televisione prodotta dalla Apple, che dovrebbe essere una vera rivoluzione perché metterà un ibrido tra computer e televisore nel salotto delle case. Forse già un po' c'è con le console, però adesso non voglio entrare in merito a questa cosa, è una discussione, quindi non la voglio fare. Assolutamente, però diciamo che in questo momento nel mercato dei televisori sono queste due i grandi eventi che si stanno attendendo. Quindi restiamo in attesa. Grazie Carlo Chericoni, buona domenica. Grazie a voi. Ciao, grazie. Io, scusa Lorenzo, volevo sentire anche Alessandra Tedesco. Ciao Alessandra. Ciao, buona tutti. Domenica. Allora, perché parliamo anche della lettura, cioè come cambia anche il nostro approccio alla lettura, visto che credo che il digitale sia ormai parte della nostra quotidianità o comunque di quella di molti. Sì, sicuramente ha iniziato a far parte della nostra quotidianità, anche se in Italia i numeri sono ancora veramente risicati. Si calcola che solo il 2% dei lettori, che già ahimè sono pochi, in Italia legge anche su ebook, negli Stati Uniti sono invece il 20%. Però c'è da dire che tutti gli editori stanno puntando moltissimo sul mercato degli ebook. Al momento solo il 4% dei titoli in commercio esiste anche in formato ebook, però gli investimenti delle singole case editrici iniziano ad essere notevoli. Vi faccio degli esempi. Sul catalogo Mondadori, l'intero catalogo, quindi non solo i libri usciti ultimamente, il 15% è disponibile in ebook. Se guardiamo invece la casa editrice GEMS, che al gruppo GEMS, che comprende Longanesi, Garzanti e Guanda, e al gruppo Rizzoli, siamo sul 13%, quindi insomma iniziano degli investimenti importanti. Poi spesso si dice che gli ebook sono utilizzati dai giovani. Verissimo, perché le digital generation sono quelle più avvezze in qualche modo ad utilizzare PC, quindi anche tablet o e-reader, ma non dimentichiamo che leggere ebook è anche, come dire, un vantaggio per chi supera i 60 anni. A questo proposito, per esempio, ho sentito Andrea Camilleri, sì, chiacchierava di come legge, di quanto legge e così via, e lui stesso, che ormai ha 87 anni, ha ammesso di fare ricorso all'e-reader. Sentiamolo. Ce l'ho, naturalmente, e quello mi consente di leggere meglio, perché avendo l'illuminazione interna, no? È come quando si va dall'oculista e ti fanno leggere le lettere sulla parete, e allora mi stanco meno a leggere sull'ebook, e credo che finirò prima o poi col doverla adottare definitivamente. Anche perché può ingrandire le lettere, per cui insomma può anche non usare gli occhiali. Esattamente, quindi insomma l'e-reader e quindi l'ebook non è solo una cosa per giovani, mettiamola così, è sicuramente uno strumento che può servire anche a chi ha problemi di vista o per esempio ai lettori forti. Io quando vado in vacanza io ho ben 4 e-reader, per non far torto a nessuno nelle varie marche, anche perché ormai i miei amici e i miei colleghi non fanno altro che regalarmi e-reader. In realtà quello è un ostacolo che poi speriamo verrà superato nel futuro, perché non ha senso che un libro possa essere letto soltanto su un supporto e non su un altro. Insomma, questo poi è un altro discorso che non ci addentriamo a fare, ecco. Però è chiaro che è un limite poi alla commercializzazione alla fine, no? È un limite alla commercializzazione, anche se ci sono i reader che leggono più formati. Sì. A me ovviamente per lavoro capita di leggere i PDF, perché ho le anteprime dei libri e quindi è tutto, certo, un sistema diverso, però sicuramente questo è un limite, cioè si è legati ad un determinato fornitore di ebook per poterlo leggere sul proprio, ma anche semplicemente lo scambio, no? A volte non è possibile perché c'è la protezione, ma ripeto, non voglio addentrarmi, però queste cose secondo me un po' limitano la divulgazione. Però ti dirò che iniziano a diffondersi in Italia anche le biblioteche pubbliche che danno in prestito i libri attraverso l'ebook. In Italia per esempio esiste da qualche anno un sito che si chiama medialibrary.it, che è nato nel 2009 e che permette è sostanzialmente una rete di biblioteche, circa un migliaio in tutta Italia, che permette il prestito del libro digitale gratuito, ovviamente a tempo, cioè si, certo, può fare il download di un ebook solo per un determinato periodo di tempo, dopo per restituirlo. Giorni non è più leggibile. Grazie Alessandra, ti devo salutare, c'è il GR, vi ricordo il cacciatore di libri, ogni sabato alle 6.45 alle 21.05. Ciao, grazie Ale. A voi, ciao. Il riposo del guerriero. Si parla del futuro possibile oggi nel riposo del guerriero qui su Radio 24. Ancora buona domenica da Stefano Gallarini, con me Lorenzo Montali, ricercatore in psicologia sociale all'Università Bicocca di Milano. Gli argomenti sono infiniti, ma questo ce lo dicevamo già al telefono qualche giorno fa quando si parlava della tua presenza qui. Hai voglia a dire futuro? Sì, ma potremmo fare 1000 puntate. Grazie per i messaggi che continuano ad arrivare. Adesso poi ce n'è uno in particolare che leggerò. Ma volevo chiederti, Lorenzo, proprio partendo dai libri digitali, no? Stiamo andando verso una dematerializzazione delle cose, degli, certo, oggetti. E questo che cosa comporta? Comporta davvero tante cose. Diciamo così, che la dematerializzazione è davvero una delle caratteristiche del nostro tempo. Io faccio fatica anche a dirlo, vedi tu, quindi. Cioè, da un lato noi costruiamo continuamente nuove cose e dall'altro appunto, no, scompare la fisicità degli oggetti. Ma potremmo dire più in generale, se volessimo allargare il discorso, in alcuni casi scompare o si attenua la fisicità di certe relazioni. No? I social network, li abbiamo accennati prima, aumentano enormemente la possibilità delle persone di avere relazioni, virgola, queste relazioni magari sulla dimensione fisica, cioè dell'incontro reale, si attenuano moltissimo. No? Quindi conosci molte più persone, ma vale ovviamente, appunto, citavamo il caso dell'ebook, in cui non è che non ci sia un oggetto, ma diciamo così, quell'oggetto... Ci sono più le pagine di una volta. Allora, questo che cosa significa? Questo ci pone una questione molto interessante, cioè noi siamo abituati a pensare la relazione con la tecnologia secondo una linearità che parte dalla nostra testa che fa il prodotto. Quindi noi cambiamo nella testa, costruiamo un nuovo prodotto e quel prodotto lì è l'esito di un nostro processo di ragionamento. Vale anche il contrario, e cioè vale anche che avere una tecnologia a disposizione cambia il modo in cui noi pensiamo. Cioè, essere costretti a usare le cose in un certo modo, quindi avere una certa dimensione di funzione degli oggetti, ci fa sì che li ripensiamo in maniera diversa. Allora, noi siamo abituati a pensare il libro in un certo modo perché, come dire, lo abbiamo sempre conosciuto così. Le generazioni che si abitueranno ad utilizzare l'ebook semplicemente non avranno più il problema della copertina di una volta e la carta non di una volta. Esiste il problema. Esatto, non scompare il problema. Sì. Da questo punto di vista, come dire, quelle generazioni avranno a che fare con dei nuovi forme di fruizione dell'oggetto, cioè scompare l'oggetto, rimane la funzione, no? Che è la cosa fondamentale. In fondo, l'oggetto non era così centrale. Quello che è importante è che noi possiamo soddisfare una funzione. I libri a cosa ci servono? A soddisfare la nostra voglia di racconto piuttosto che la nostra voglia di conoscenza. Quella rimane assolutamente... Però posso dire una cosa, certo. Vedi... Il libro, il fisico intendo dire, esisteva in edizioni particolari, quindi io posso mantenere il suo contenuto, che è la cosa più importante, è vero, ma esiste anche un altro aspetto, che è l'aspetto, se vuoi, estetico, del piacere, che non vorrei che andasse a sparire. Cioè, questo è solamente un ragionamento che faccio adesso. Cioè, il libro, la sua, era anche è bello perché poteva avere una copertina preziosa, perché poteva avere la dedica di chi l'aveva scritto sopra. E non so, perché era un'edizione particolare. Ecco, questo è possibile solo con la fisicità. Certo, ma difatti non è che non rimarrà un mercato per gli appassionati di... Però se ci pensi, la storia del libro è una storia brevissima. Cioè, la storia del libro stampato in particolare è una storia brevissima. Noi siamo andati avanti per centinaia di anni a non avere libri stampati e abbiamo in fondo, come dire, questa tecnologia, una tecnologia molto recente che ha avuto una, diciamo, durata di vita non particolarmente lunga. Allora, tu adesso ti metteresti in casa un libro con tutte le miniature ricche d'oro? Certo, te lo terresti se sei un collezionista. Sì, è esattamente certo. La dimensione verso cui andremo, e cioè il tuo piacere della copertina particolare non è che di per sé scomparirà, semplicemente, come dire, riguarderà soltanto una nicchia di persone che hanno quel tipo di interesse. Quindi tu dici, alla fine si spostano i problemi, cioè erano quelli, e per la nuova generazione si sposteranno verso altri, perché per loro non sarà più un problema la carta che si rovina, piuttosto nel caso del libro. Ma perché torniamo alle cose che dicevamo all'inizio della trasmissione, cioè non è che questo sviluppo della tecnologia non ci ponga continuamente nuovi problemi, quindi noi, come dire, cambiano ancora una volta i presupposti, e quindi dobbiamo, non so quali presupposti invece possano cambiare. Massimo Scaglioni, buona domenica. Buongiorno, buona domenica. Eccoci qua, noi siamo qui per parlare di quello che sarà la televisione, visto che sei docente di storia dei media all'Università Cattolica di Milano. Come cambierà, se cambierà la nostra fruizione di televisione, cosa avremo nell'immediato, cosa sta succedendo? Massimo. Ma intanto lasciami dire una cosa, sì, che ho sentito molto parlare di profezie questa mattina, e io appunto da storico devo dire che sono qualcosa che va, come dire, toccato con molta cautela, perché se voi andate a vedere un po' le profezie che gli studiosi dei media hanno elaborato nel corso degli anni, ecco, diciamo, non ci hanno preso molto spesso. Ecco, scusami Massimo, io ho fatto una puntata proprio intitolata "Il futuro che non è stato", cioè esatto, tutto quello che è stato detto e che non è assolutamente successo. Oggi invece era il futuro possibile, cioè le cose che veramente potremmo trovare sugli scaffali, le cose delle quali abbiamo veramente o avremo veramente a che fare, ecco, di questo volevo parlare. Possiamo chiaramente basarci su quello che sta accadendo, diciamo che questi ultimi, soprattutto quest'ultimo decennio, diciamo il decennio degli anni 2000, sono stati anni di grandissima trasformazione della televisione, in particolare del sistema dei media. Quello che ci dobbiamo aspettare è, a mio avviso, una televisione insieme più grande, più flessibile, più sociale, insieme più frammentata. Mi spiego, più grande significa che, lo abbiamo visto nel corso di questi anni, l'offerta televisiva è fortemente cresciuta. Eravamo abituati fino a pochi anni fa ad un numero molto limitato di canali, oggi abbiamo un'offerta di centinaia di canali, e questo significa che l'offerta si è fatta anche sempre più targettizzata. Abbiamo contenuti che sono molto più vari, che mirano a rivolgersi a nicchie di gusto anche molto precise, molto specifiche. Dicevamo poi flessibile, significa che accanto alla diciamo televisione tradizionale che continua a conservare un suo valore rituale, diciamo così, vengono ad emergere sempre più forti forme di personalizzazione e il palinsesto, quel che è insomma l'elemento fondamentale della televisione, diventa sempre meno rigido, e naturalmente questo ovviamente ha a che fare poi con i generi, perché ci sono dei generi televisivi che sono più facilmente fruibili in modalità, se vogliamo, on demand, penso soprattutto a tutta la library di cinema, alla serialità, addirittura appunto sulla serialità si creano modalità di visione anche molto diverse, no? In quelle serie siamo abituati all'appuntamento settimanale, ma ora attraverso appunto le modalità on demand possiamo per esempio fare queste lunghe maratone che magari ci tengono incollati per un fine settimana, un'intera stagione di una serie televisiva, ad esempio. Io faccio parte di quella categoria lì, devo vedere ecco, tutto insieme. Certo. Anch'io, quindi queste grosse full immersion. Perché mi dimentico, se no, quello che è successo. E poi dicevamo sociale, nel senso che uno degli elementi più interessanti dello sviluppo dei media e della televisione in questo momento è che fino appunto a qualche anno fa l'audience, il pubblico televisivo, non aveva possibilità, diciamo così, di comunicare, no? Era come dire una finzione, perché era come dire, il pubblico della televisione è per definizione delocalizzato, no? Sparpagliato nelle tante case. Ora ovviamente quello che si vede sempre di più è che molto spesso il contenuto dei social network diventa la televisione stessa. Quanto spesso si parla o direttamente o indirettamente di televisione, per esempio su Twitter o in generale sui social network, e quanto in generale il contenuto dei nuovi media è fatto da un medium tradizionale che è appunto la stessa televisione. Questo significa, c'è un autore, Harry Jenkins, che l'ha, come dire, sintetizzato nell'idea della convergenza, cioè i media non vanno più per conto loro, ma diciamo convergono sempre di più anche negli usi che ne facciamo. E l'ultima cosa, dicevamo, era la frammentazione. Il consumo di televisione è sempre più, se vogliamo, frammentato, perché da un lato appunto abbiamo quel tipo di televisione generalista a cui siamo abituati, e dall'altro lato invece abbiamo una molteplicità di canali creano un consumo sempre più, se vogliamo, di nicchia. Si va sempre più definendo quella legge del consumo che è stata definita, insomma si vede un po' in quasi tutti i paesi europei, del 70-30, il 70% dei consumi resta sui canali generalisti e il 30% finisce invece sui cosiddetti canali nativi digitali, che hanno appunto ascolti molto piccoli ma anche molto targettizzati. Ecco, quindi questo è un futuro possibilissimo, fra l'altro, perché adesso poi le TV mano a mano, chi le acquisterà o chi le sta acquistando in questo periodo, sono sempre più collegate alla rete, quindi daranno sempre di più la possibilità di fruire dei contenuti che normalmente siamo abituati a vedere sul computer o sullo smartphone, insomma abbiamo capito che ormai tutto insieme lo vedremo sulla televisione, per cui le due cose si uniranno tanto. Vediamo cosa succede, ma certo stiamo andando in quella direzione. Vedremo che cosa farà cambiare anche da un punto di vista della testa. Una domanda per te, Lorenzo. Grazie intanto, grazie a Massimo Scaglioni. Grazie. Buona domenica, grazie. Ciao. Buona domenica. Il riposo del guerriero. Chiedevo a Lorenzo Montali se questa frammentazione poi possa portare anche un pensiero, un ragionamento frammentato piuttosto che analitico. Allora, credo. Non analitico. Diciamo così, risponde a una percezione che abbiamo del fatto che appunto ci siano moltissime informazioni possibili a disposizione rispetto ad un problema e anche moltissime fonti possibili che lo raccontano in maniera diversa. Allora, una delle cose più difficili che noi abbiamo con cui abbiamo a che fare è il tentativo di costruirci un pensiero argomentato rispetto a un certo tema, avendo a che fare con una molteplicità di esperti e di fonti informative che ci raccontano il loro punto di vista intorno a quel problema. Allora andiamo alla ricerca di molte fonti, perché siamo consapevoli che esistono molti punti di vista diversi e lo sforzo che facciamo è quello di cercare di tenerli insieme. È ovvio che, come dire, ogni tanto rischiamo di essere più superficiali da questo punto di vista, però allo stesso tempo, come dire, comporre questa complessità e quindi raccoglierla in primo luogo attraverso le diverse fonti è qualcosa di cui abbiamo profondamente bisogno. Non so se sono riuscito a cerchiamo fonti diverse su argomenti e attraverso media diversi, perché siamo consapevoli che esistono modi diversi di raccontare un problema. Sì, quindi abbiamo imparato a vedere le cose da punti di vista diversi. Esattamente, esattamente. E che solo la composizione dei punti di vista costruisce un nostro pensiero, in particolare rispetto a un certo oggetto. Cioè solo il tenere insieme, l'ascoltare punti di vista diversi e alla fine farsi una propria idea costruisce. Quindi ancora il presupposto che cambia. Cioè mentre prima avevamo meno fonti e quindi c'era un pensiero che analizzava più quella fonte lì e poi andava oltre, oggi invece abbiamo tante fonti diverse e la nostra capacità deve essere quella di mettere insieme tutti gli elementi e andare a fondo in quel senso. Esattamente, cioè capire... allora stiamo ovviamente ipersemplificando, però se dovessimo fare una differenza fra diciamo così un passato remoto e un presente attuale, dovremmo dire che ciò che caratterizzava un passato remoto era sostanzialmente una uniformità di punti di vista e di diciamo competenze riconosciute, cioè c'era l'esperto, c'era il discorso legittimo su un certo argomento. Quello che caratterizza la contemporaneità è il fatto che i discorsi possibili rispetto a un oggetto sono tantissimi ed esprimono punti di vista differenti. La chiameremo democrazia da un certo punto di vista. Anche gli esperti possibili sono tanti. Allora il lavoro difficile per ciascuno di noi è capire qual è il modo in cui questi esperti possibili possono essere messi insieme per costruire, per aiutarci a costruire un nostro pensiero. Sì, e io adesso mi viene in mente da quello che dici, quando si è sui forum, cioè su quei posti su internet dove si leggono risposte a una domanda, devo dire che molti si improvvisano proprio, cioè scrivono cose che sono assolutamente false pensandogli perché o non so se vogliono dire la loro o pensando di dire qualche cosa di concreto che invece tecnologicamente, quindi scientificamente, è assolutamente falso e fuorvia chi ha fatto la domanda. Ecco, c'è anche però questo rischio. No? Certo, sì, poi sui perché le persone, come dire, usano... Ecco, allora ti chiedo già una cosa. Siccome oggi abbiamo evitato completamente il sociale, non abbiamo parlato del sociale, cioè dei nostri rapporti, e anche questo ne è un esempio, no? Il voler dire per forza qualche cosa, cioè come sta cambiando. Vorrai essere ospite in una prossima puntata che sarà solo sul sociale, invece? Sul sociale. Ecco, va bene, okay. Grazie, così ti prenoto, diciamo così, dimmi dove devo firmare. Pia Capelli, ciao, buona domenica. Ciao Pia. Ciao Stefano, ciao a tutti. Ben ritornata, giornalista, insomma sei venuta qui come esperta di arte contemporanea, ma tu ti occupi anche di future design, giusto? Future fashion, se non mi sbaglio. Future fashion, ecco, allora. Sì, insegno all'Istituto Marangoni di Milano. Da qualche anno mi occupo del futuro della moda. Ecco, come sarà? Allora, cosa vestire, come sarà? Insomma... che futuro ha la moda, per capirci? Beh, la moda ha tanti futuri possibili ed è un osservatorio fantastico da cui immaginare il futuro, perché mette insieme la creatività e anche i grandi capitali che servono per la ricerca, quindi sono queste due cose insieme sono molto fertili. Diciamo che in un futuro possibile della moda ci alzeremo la mattina e ci vestiremo davanti a un magic mirror, uno specchio che in realtà non è uno specchio ma è un display interattivo che attraverso la realtà aumentata ci farà vedere tutti i capi che possediamo, ce li farà provare in maniera virtuale e eventualmente ci permetterà anche di condividerli sui nostri social network, quindi di chiedere un feedback dagli amici, sto bene, sto male. Io sto già pensando a come poter inserire il capo che ho nel computer, cioè nel Magic Mirror, perché già quello è un passaggio, cioè bisogna inserire i capi già che si hanno. Già quello è un passaggio. Naturalmente potremo anche comprarla la moda online, sempre di più si compra online e quindi se si compra attraverso lo stesso display poi automaticamente si archiviano i propri capi in questa, anche se in questa immagino, ecco, immagino che in questo futuro non saremo noi a inserire il capo, ma i capi avranno sicuramente un codice, un NFC come avranno dicevo tag, prima, sì. E quindi automaticamente il nostro Magic Mirror prenderà. Ecco, però queste cose, Pia, sono solo nell'immaginario o esistono già e proprio le vedremo poi, le potremo anche comprare? Vi parlo di cose che sono già vere oggi, poi che siano vere e come dire sperimentabili oggi non significa che necessariamente questo sia il nostro destino, che faremo tutto quello che potremo fare, perché sceglieremo magari diversamente, però di sicuro la parola smart, la tecnologia e la scienza sono due delle discipline contemporanee che di più influenzeranno anche la moda, per cui ci saranno abiti intelligenti, tecnologie indossabili, avremo addosso degli abiti che reagiscono all'ambiente, al clima, ai nostri parametri vitali che ci tengono asciutti, ci tengono caldi ma freschi, ci tengono idratati e addirittura ci possono curare se ci ammaliamo. Quindi degli abiti che hanno anche una funzione, che sono performanti. E di questi abiti e accessori ce ne sono già moltissimi, non in circolazione ma in sperimentazione. I primi che entrano sul mercato, come dicevate prima, sono i Google Glasses, che sono gli occhiali per la realtà aumentata che ha inventato Google e che adesso vengono venduti a $1,500 e che sono già andati in passerella, perché una stilista americana, Diane von Furstenberg, li ha già mandati in passerella durante la New York Fashion Week, quindi sono già diventati un accessorio di moda. Ecco, quando costeranno €1,50 magari riusciremo poi a indossarli anche noi. Per adesso certo, sono inarrivabili, anche se li vorrei in questo momento, ovviamente. Per la migrazione è sempre così. Vabbè, lo so. Poi si arriva nella vita quotidiana. Guarda, io sono uno che adora gli start, per cui sono uno che in queste cose ha speso veramente molto nel corso della vita, perché volevo essere tra i primi. Adesso mi sono molto calmato. Grazie Pia Capelli, buona domenica. Ciao. E, Lorenzo, insomma, poi ci risentiremo. Che non sa davvero niente di moda, quindi che, diciamo così, si è illuminato sentendo. Questa moda intelligente, ecco. A parte che io sto già pensando a come lavarla, cioè si potrà mettere in lavatrice. Sai cosa mi sorprendeva molto? Le cose che dicevamo di quello specchio, no? Sì. Che appunto sembrano rimaste inalterate però alcune dimensioni fondamentali, cioè da un lato il ma cosa penseranno gli altri se mi vesto così, quindi evito il problema, glielo chiedo prima direttamente, e dall'altro appunto l'eterno dramma di ma che cosa mi vesto, di cosa mi vesto questa mattina. Allora ti aiuta lo specchio a decidere e hai delegato a qualcuno e non ti deciderai, e poi non ti piace, mai, e poi non ti piace, e dici vabbè, ma faccio io. Funziona così. Senti, nella tua sfera di cristallo cosa vedi nell'immediato? No, non ce l'ho davvero una sfera di cristallo. Mi chiedevo appunto quanto la tecnologia entrasse nella produzione, per esempio, no? Esatto. di questi vestiti. Lei ce li ha raccontati molto sofisticati, è probabile, come dire, che entri anche invece nella dimensione proprio del rendere possibili nuovi tessuti piuttosto che nuove. Quindi questa la vedi una cosa possibile, sperimentata, ma che poi la troveremo veramente sugli scaffali nei nostri negozi. Grazie intanto a Lorenzo Montali. Io vorrei dire una cosa, mi viene in mente questo. Qualche giorno fa ero in banca e la persona che era davanti a me, l'operatrice della banca, così aveva davanti un Deplian con un NFC, cioè questo chip, diciamo così, e non sapeva assolutamente cosa fosse. Io, avendo il telefonino in quel modo, gliel'ho fatto vedere per la prima volta, quindi mi rendo conto che comunque in moltissimi ancora, quando si parla di queste cose, non sanno davvero di cosa stiamo parlando, cioè non hanno la minima idea, ma persone, voglio dire, di 30 anni, 35, quindi non così anziane, anzi sono giovani. E quindi ho paura che tutto questo allontani al posto di avvicinare. Allontani dall'uso dei prodotti o allontani le persone fra loro? No, allontani dall'uso dei prodotti. C'è un tempo, come dire... fisiologico. Esatto, c'è un tempo fisiologico. Ne parlavamo prima a proposito dell'ebook. E poi c'è una cosa che diceva... C'è una cosa che diceva prima il tuo ospite a proposito della targetizzazione, no? Cioè, come dire, ci sono nicchie di persone che arrivano, che decidono prima di utilizzare certi prodotti perché hanno una curiosità specifica verso questo. Ci sono persone che sono più tradizionaliste e quindi arrivano dopo. Quindi da questo punto di vista, come dire, il trend è identificato, dopodiché il tempo che ciascuno ci mette o che i grandi gruppi ci mettono può essere variabile a seconda del tipo di prodotto. Noi in una società da 0 a 100 dove siamo secondo te? Dovendo generalizzare. Rispetto a chi? Noi, chi è noi e con chi ci stiamo confrontando? Noi come italiani, con quello che abbiamo a disposizione. Dipende molto dalle possibilità di spesa che abbiamo, dipende molto dagli interessi. Cioè non esiste una categoria degli italiani da questo punto di vista, no? Non è che l'ebook non sia entrato per niente, ma è entrato in una misura più limitata. Quindi, appunto, è difficile sempre dire chi siamo noi, è difficile sempre dire chi sono gli altri, no? Perché appunto negli Stati Uniti l'ebook è diffuso al 25% contro il 3% che da noi, ma vuol dire che il 75% non lo usa, quindi appunto non è che ci siano delle dimensioni chiare. Ci sono, e ritorno su questo, ci sono gruppi che sono più interessati a certi, e quindi tipi, chiaramente si avvicinano prima degli altri e saranno poi loro a trascinare poi E saranno poi loro a trascinare, sono poi, come dire, a loro volta loro sono spinti da appunto un mercato che si sta costruendo, ma poi le persone non sono, non è detto che siano genericamente curiose per tutto, no? Ci sono alcune cose rispetto a cui lo sono e altre cui lo sono meno, cioè ciascuno di noi ha, come dire, un bagaglio di attività per le quali è più motivato, più interessato, su quelle si dà più da fare, si impegna di più. La famosa frammentazione della quale si parlava è proprio questo, che i canali stanno frammentando proprio perché danno una scelta ai vari interessi, e quindi in questo senso il futuro c'è già, cioè il avere qualcosa per tutti gli interessi possibili. Allora c'è il futuro, adesso che ci sono alcuni trend già ora e che, come dire, verranno sviluppati nel futuro. Sì, certo, è un futuro di... Allora chiudo con questo, grazie, il discorso sulla conservazione fatto poco fa è giustissimo, anzi noi abbiamo già competenze e un passato sostenibile e di qualità, si pensa al gastronomico, all'arte del paesaggio, che non è che il frutto di coltivazioni minute di singoli piccoli saggi contadini. Inoltre ricordo che Carlo Francia ha inventato il solare e che i nostri centri storici sono esposti al sole con sapienza millenaria. All'Italia basta guardare al passato per avere il futuro, sei d'accordo? Cioè, allora, vedi, questa mail, questo messaggio è molto interessante, perché appunto ci invita a guardare le due dimensioni, no? Se vogliamo fare discorsi complessi dobbiamo tenere dentro la complessità, e la complessità è sempre data appunto dal fatto che siamo arrivati fin qui in un certo modo, e quindi non è che scomparirà quella storia, no? Ma in quella storia tu trovi risorse e puoi attingere per costruire il futuro allo stesso tempo, però il futuro è già qui, e quindi ci sono degli sviluppi che abbiamo già identificato e che, come dire, di cui dobbiamo trovare l'armonizzazione, no? Senza avere l'idea che questa armonizzazione in realtà la raggiungeremo mai. Cioè è chiaro che quelle due dimensioni, il passato e il futuro, permangono nella vita di ciascuno di noi e impariamo a conviverci. Ecco, impareremo anche tra poco con Francesco Dragotto a capire come il passato può essere davanti e il futuro alle nostre spalle. Dopo la pubblicità, e ancora grazie Lorenzo Montali. Buona grazie domenica. A voi. Il riposo del guerriero. Senti chi parla. No, dovrei dire oggi, senti come parleremo, perché com'è che parleremo? Francesca Dragotto, ciao, buona domenica. Buona domenica, buongiorno. Allora, senza più congiuntivi, poi solo al presente, il passato non esiste, come funzionerà la nostra lingua? Chi vivrà vedrà. Questo sì, certo. Ma secondo le tendenze, diciamo, come si svilupperà oppure si involverà la nostra lingua? Che poi è un'evoluzione comunque. Quale futuro per la nostra lingua, quale futuro per l'italiano? È una bella scommessa. C'è chi, uno tra tutti, il linguista più noto nei nostri tempi, Noam Chomsky, appunto c'è chi sostiene che l'italiano sia a rischio di estinzione perché è marginale nel web, perché è marginale nel grande mercato della pubblicità mondiale mossa appunto da internet e dalle nuove e dai nuovi mezzi di comunicazione, mezzi che inevitabilmente rafforzeranno il dominio di alcune lingue nei prossimi decenni a scapito di tutte le altre. Però c'è anche chi, la maggior parte dei linguisti nostrani, ma non solo, appunto ritengono che si tratti di una previsione troppo apocalittica. Di sicuro occorre avviare una riflessione sull'italiano all'epoca dell'inglese, o meglio, all'epoca degli inglesi, lingua veicolare, perché è inevitabile che con la diffusione che ha avuto soprattutto negli ultimi decenni non si possa più parlare dell'inglese, ma di una sorta di ibridazione, quindi di inglesi al plurale. Questo accade ogni volta che una lingua diventa una lingua veicolare, ma non solo. Dovremmo vedere anche cosa succederà con lo spagnolo, seconda lingua al mondo per numero di parlanti, e poi la grande incognita, il cinese, prima lingua al mondo per numero di parlanti nativi. Se volessimo adottare ad esempio questa classifica, l'italiano, quindi la classifica del numero dei parlanti nativi, l'italiano lo ritroveremmo abbastanza indietro, così come in una classifica più ampia basata sul numero dei parlanti lo ritroveremmo non prima del 25esimo-26esimo posto. Ecco, ho una curiosità: se l'italiano dovesse perdersi, noi andremo a parlare l'inglese, uno degli inglesi appunto, o andremo a parlare lo spagnolo? Ma Che domanda difficile e interessante. Io onestamente non voglio neanche prefigurare una perdita dell'italiano. Questo lo so, certo. Neanch'io. Mi auguro che sì, come tutti noi, però davvero dovremmo avviare una politica seria di riflessione, una riflessione legata anche al rapporto tra norma e usi, perché poi noi molto spesso liquidiamo i discorsi intorno alla nostra lingua con è più giusto dire così o in un altro modo, mentre in realtà dovremmo riuscire a vedere meglio che attaccarci troppo alla norma ha per conseguenza l'allontanamento dall'uso, però al contrario essere più indulgenti con l'uso rischia di annacquare la lingua, di accettarne una trama sbrucita. Cosa fare? La scuola, lo torno a dire, avrebbe un ruolo centrale in questo tipo di, questione. Tornando e stringendo sulla tua domanda, non riesco a immaginare un futuro senza l'italiano, però di sicuro in assenza di una politica che lo salvaguardi, soprattutto in Europa, diventerà sempre più una nicchia, una lingua di cultura ma legata ad ambiti d'uso sempre più ristretti, e quindi inevitabilmente una lingua che si va a provincializzare, a marginalizzare, fin davvero a poter rischiare l'estinzione. Ecco, il latino, secondo te, lo studio ancora che si fa il latino, penso semplicemente a chi fa un percorso, no, legato alla Chiesa, ovviamente, il latino è obbligato ancora a studiarlo, a parte poi chi fa gli studi classici che studia latino e greco, ha un peso perché una lingua come l'italiano, che deriva proprio dal latino, possa invece restare più tempo rispetto a quello che si possa pensare? Ma non solo, lo studio del latino è funzionale anche a una migliore comprensione dell'inglese, così come di quella parte di tutte le lingue europee che è di base latina. Possiamo parlare addirittura di un lessico intellettuale europeo, quindi un insieme di termini che ritroviamo nelle diverse lingue, anche lingue che genealogicamente provengono da modelli differenti, non a caso appunto il tedesco o l'inglese sono lingue germaniche, mentre l'italiano o lo spagnolo che citavi prima sono lingue romanze, però andando a vedere le parole o le strutture a volte di queste lingue, ma soprattutto le parole, ci accorgiamo di elementi comuni, e questo lo dobbiamo alla grande tradizione latina che sopravvive a se stessa, tanto da poterci far dire, anche se sembra una provocazione, che il latino non è in fin dei conti una lingua del tutto morta, ma questo potrebbe essere argomento per un'altra. E magari ci aiuterà proprio a fare in modo che l'italiano sia sostenibile ancora per molto tempo. E parlando di latino e greco, invece, ho scoperto grazie a te che il futuro non è poi così legato al domani, ma forse legato anche al passato. Fai riferimento alla collocazione del futuro nello spazio, nel senso che noi parlanti italiano siamo abituati a immaginare il futuro davanti e il passato alle nostre spalle, come noi parlanti di tantissime altre lingue, però ad esempio nel greco antico e in altre lingue tuttora parlate non è così, ci si immagina il futuro alle spalle e il passato davanti. Perché? Perché il passato è un qualcosa che si conosce e quindi lo si può vedere e quindi è davanti agli occhi, mentre il futuro è un qualcosa di imperscrutabile e per questa ragione lo si può collocare anche alle nostre spalle. L'insegnamento è sempre lo stesso, le risposte cambiano col punto di vista adottato, soprattutto quando si parla di lingua. Quindi, anche ritornando alla nostra domanda originaria, in vista di una riflessione seria, di una politica seria di tutela della nostra lingua, dobbiamo ricordarci che il punto di vista può determinare delle strade differenti, e il caso appunto che facevi del rapporto tra spazio e futuro ci dice che non dobbiamo dare nulla per scontato. Un punto di vista che cambia, come si diceva anche prima con Lorenzo. Volevo, prima del gastronauta, leggere velocemente dei messaggi con le risposte. Manu scrive: la tecnologia non è tutta intelligente, per esempio quando si decideranno a omologare carica batteria dei cellulari, è già così per legge europea, è l'unica Apple che non si è adeguata, e poi tutti gli altri hanno lo stesso carica batteria che la micro USB. E poi c'era un altro messaggio, ci saranno no, scusatemi, c'è un messaggio che non riesco più a trovare. Però diceva semplicemente questo: sono passato, ecco, da un cellulare normale a un touchscreen con la tastiera normale, ero in grado di scrivere senza guardare il telefono, invece col touchscreen devo guardarlo per forza. Di questo stavo parlando fuori onda proprio con Lorenzo, ed è un argomento che toccheremo, il fatto che la dematerializzazione impedisce anche di fare delle azioni senza guardare, come noi eravamo abituati a fare. Insomma, una volta quando si scriveva sulla tastiera, semplicemente noi possiamo anche non guardare, perché i tasti li sentiamo fisicamente quando li premiamo e non abbiamo bisogno di guardarli perché sappiamo dove sono messi. Invece con il touchscreen è impossibile, bisogna per forza guardare la tastiera, e questo fa cambiare tante cose, ma ne parleremo in una prossima puntata del Riposo del Guerriero. Il gastronauta. Se invece chiedo il futuro possibile a Davide Paolini, mi dice che il futuro è nel passato, giusto Davide? Ormai? No, problema è molto semplice, diciamo che è molto semplice, che è veramente incredibile quello che succede nel food e nel cibo. Che ti sto parlando di, diciamo, di scuole di cucina, che ogni volta che si va avanti nasce così, nascono delle cucine futuribili, come quella della destrutturazione, diciamo, sì, di matrice spagnola, poi dopo qualche tempo c'è un ritorno indietro. E questo è successo, la nuova cuisine, idem. Cioè ogni volta nasce così, nascono dei fenomeni molto avanzati e immediatamente si torna indietro. Però il futuro, secondo me, certamente c'è un qualcosa all'orizzonte, che visto i flussi di immigrazioni, visto gli incroci di popoli sempre più continui, sicuramente ci sarà una contaminazione tra le varie abitudini, i vari usi, i vari prodotti. Anche ingredienti nuovi che noi magari usavamo meno, per niente, che entrano però nella nostra cucina. Esattamente. Ci saranno tantissimi ingredienti nuovi che entrano nelle varie cucine, che poi vengono fatti propri, e a quel punto diventano delle ricette di quei popoli e di quei paesi. Questo ormai è nella storia. Dalle famose caravelle che ci portarono tutto quello che poi è diventata la dieta mediterranea, chi lo pensava allora che si sarebbe trasformato nella dieta mediterranea, eppure è successo. Certo che ci sono i metodi di conservazione, i metodi di preparazione, quelli sicuramente avranno un futuro le cucine delle case, delle abitazioni, anche quelle dei cuochi, lì ci sarà uno sviluppo sicuramente che porterà un altro modo di fare, di produrre. E soprattutto la produzione, il discorso sempre di meno chimica, sempre meno di, diciamo, di conservanti o d'altro, porterà sicuramente a dei risultati. Ci saranno prima o poi appunto delle scoperte in questa direzione. Cioè, se uno pensa a cosa ha portato il frigorifero, pensate un po', la creazione del frigorifero è molto lontana, però ha portato degli sconvolgimenti nella vita delle persone il frigorifero. Così pure la tecnica del ghiaccio. Ora la tecnica del sottovuoto in cucina ha portato altre variazioni, altri cambiamenti. Però nel futuro non vedo la pillola. Ogni tanto si parla la pillola per mangiare. Prego, non voglio neanche sentirla. E appunto, questa non succederà. Anche sul vino sicuramente ci saranno dei passi in avanti. Per esempio per mettere meno solfiti, che sembrano essere dannosi alla salute. Forse anche sulle allergie alimentari ci saranno delle scoperte che porteranno la gente a mangiare molto molto meglio. La sostenibilità appunto delle produzioni porterà in avanti. Però io credo che comunque il gusto potrebbe avere dei cambiamenti, perché il gusto è sempre contaminato dalla società e dal modo di vivere della gente, quindi anche il gusto potrebbe cambiare. Certo, però si amplierà molto probabilmente, no? Impareremo a mangiare proprio più cose, quindi ad apprezzare ancora di più, e questo può essere solo buono. I giapponesi hanno un sesto senso, che è l'umami, no? Questo sesto che hanno scoperto appunto, che non sono più cinque come c'è sempre stato. I giapponesi sono andati avanti e di conseguenza probabilmente, chissà, qualcuno scoprirà il settimo. Magari noi scopriamo di averne uno che ancora, del quale ancora non ne siamo coscienti, siamo qua che lo aspettiamo di capire. Grazie Davide Paolini, buona domenica. Tra poco giochiamo con Modigliani 24 minuti, per voi due biglietti di ingresso e poi il catalogo alla mostra a Milano da febbraio, è già partita da qualche giorno a Palazzo Reale. Modigliani in 24 minuti. Dovete associare in questo caso una delle opere di Modigliani alla canzone che sto per farvi ascoltare, per portarvi a casa a catalogo di biglietti d'ingresso. 800 24 00 24, ecco la canzone. Secchi di vernice, coloriamo tutto. colori, raccogliamo tutti i fiori che può darci primavera, costruiamole una culla per amarci quando è sera poi. Famosissima canzone di Riccardo Cocciante, Giampiero dalla provincia di Como. Ciao Giampiero, buongiorno. Ciao. Allora, la conosci questa canzone, immagino? Sì, Margherita. Margherita, esatto. Senti, allora com'è che si può intitolare questo dipinto di Modigliani? Non so. Guarda, Modigliani, secondo te, tra insomma, le opere, qual era la cosa nella quale lui era esperto? Cos'è che faceva, no? Più facilmente? Non le nature morte, ma faceva i... Cosa poteva fare? È in presente Modigliani, no? Corpi di donna vivi. Ecco, sì, più che il corpo sono una parte, la parte superiore. Il viso, eccola. Allora, com'è che si può intitolare quest'opera di Modigliani che abbia a che fare con questa canzone? Davvero non saprei. Ma è facile, Giampiero. Il più come faccio ad aiutarti? Dovrei dirti il titolo, però come faccio? E quindi ti devo salutare, Giampiero. Va bene, d'accordo. Grazie. Ciao Giampiero, mi dispiace. Filippa da Milano, ciao Filippa, buongiorno. Oh, buongiorno, caro. Allora, Filippa, com'è il titolo di quest'opera di... Immagino il ritratto di Margherita. Di più non potevo aiutare. Sì, certo. Ritratto di Margherita, esatto. E questo è il titolo. Grazie Filippa, per te catalogo dei biglietti per la mostra. Buona domenica. Aspetto al telefono, grazie. Grazie, 800 24 0024, puoi anche mettere giù Filippa, sappiamo il tuo numero per cui ti ricontattiamo noi. Volevo rispondere all'ascoltatore che non si è firmato, ma lo saluto volentieri, ha 71 anni, dice da 5 navigo anche con tablet o il cellulare e lo smartphone. E dicono che sono un fenomeno e io sono convinto di che sia così, però solo un consiglio. E il nostro amico scrive tutto in maiuscolo. Io vi ricordo che quando si scrive tutto in maiuscolo in un messaggio, in una mail, vuol dire che si sta urlando, per cui sarebbe meglio usare il minuscolo. Angela da Como, buona domenica. Sì, buongiorno. Buona domenica. Angelo, per te cambia la canzone e quindi cambia il quadro, ma ti garantisco che è ancora più facile di quella che abbiamo sentito prima. D'accordo. Stai lì, eh? Ma io non ci sto più e i pazzi siete voi. Tutti pensarono dietro ai cappelli, lo sposo è impazzito. Oppure ha bevuto, ma la sposa aspetta un figlio e lui lo sa, non è così che se ne andrà. È uno dei più grandi successi di Francesco De Gregori, che si intitola, Angela? Alice. Alice, ecco. E io vorrei capire come può intitolarsi questa opera di Modigliani, che ti dico, il titolo è una parola sola. E basta. E quale parola potrebbe essere? Lo stesso nome. Direi lo stesso nome. Quindi dillo tu. Alice. Alice. Era facile. Molto. Era molto facile. Oh, diciamo che era molto facile. Brava. Per te catalogo due biglietti. Brava Angela. Ciao, buona domenica. Grazie mille. A volte, ciao. Perché a volte quando è così facile poi uno si perde comunque. Elisa da Monza, buongiorno. Sì, buongiorno. Ciao Elisa, anche per te ti aiuterò tanto, ti faccio sentire questa bella canzone e vediamo se riesci a dire il titolo. Speriamo. Dell'opera di Modigliani. Le ragazze nei metro hanno sguardi lontani e mani fragili, quale amore le in attesa nell'oscurità. Donne candide, donne che si arrendono, donne in amore, l'amore le perdonerà. Donne magiche, donne che sorridono, dolce mistero, il tempo non le... Eccola qui, lei, Grazia di Michele. Non so se ricordi questa canzone, Elisa. Sì, la ricordo così, ma il titolo non lo ricordo. Il titolo è Le ragazze di Gauguin. Ah, le ragazzi di Gauguin. Allora, abbiamo il titolo di un'opera di Modigliani, e che è proprio molto vicino a questa canzone. Ma ne ha fatti tanti di volti, di... Però sinceramente... Una delle parole è, secondo te, si intitola Le ragazze di Gauguin, quindi una delle parole di questa, di questo quadro saranno le... Le donne di Gauguin. No. No. Elisa, è come se non ci fossimo mai sentiti. Ciao, buona domenica. Elisa non mi ha mai telefonato. Ci sentiamo domenica prossima alle 10 puntuali. Grazie a Giorgio De Luca in redazione, Alice Cosilli in assistenza, Paolo Correoni in regia. A voi, buona domenica da Stefano Gallarini.